Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Fermare il diabete attraverso una significativa riduzione di peso ottenuta seguendo una rigida dieta ipocalorica. Questo è il risultato di un trial clinico pubblicato su Lancet, condotto dai ricercatori della Newcastle University, che hanno seguito 300 adulti tra i 20 e i 65 anni con diabete di tipo 2. A Obiettivo Salute commenta la notizia il professor Giorgio Sesti, presidente della Società Italiana di Diabetologia. In questo studio, fatto nel setting delle cure primarie, quindi nel medico di medicina generale, con una riduzione delle calorie sotto le 900 kcal al giorno, è stato possibile ottenere la remissione del diabete in quasi il 50% dei partecipanti. È un risultato importante che è stato ottenuto soprattutto in quelli che perdevano più di 15 kg e quindi è fortemente raccomandato associare alla terapia con i farmaci anche un'adeguata dieta oltre che un'attività fisica. Per saperne di più seguite l'approfondimento sulle pagine di Obiettivo Salute del professor Sesti a tavola con il diabete. Gli antinfiammatori non steroidei, cosiddetti FANS, sono tra i farmaci più utilizzati in Italia, venduti senza ricette, preziosi contro il dolore, se consumati in modo prolungato possono mettere il cuore a rischio e creare dipendenza. A Obiettivo Salute il professor Piero Montorsi, responsabile dell'unità operativa cardiologia invasiva 2 al Centro Cardiologico Monzino di Milano. Sì, è vero, gli inibitori e i farmaci antinfiammatori possono dare un sacco di benefici, ma possono a lungo termine essere anche farmaci pericolosi. Purtroppo la gente questo lo dimentica perché li può trovare in qualsiasi, a volte, scaffale di supermarket, quasi come in America, e quindi è sicuramente tentata ad usarli in qualsiasi momento, ad abusarne e a creare dipendenza, ma a creare poi dopo anche resistenza a questi farmaci. Vanno usati solamente quando realmente c'è un problema di dolore, spesso cronico, sostenuto o meno da un'infiammazione, ma vanno usati con criterio per un certo periodo e spesso il più breve possibile, ad un dosaggio il più efficace ma allo stesso tempo il più basso possibile, sotto stretto controllo medico. Il nostro cuore soffre il freddo. I consigli del professor Montorsi sulle pagine di Obiettivo Salute. Obiettivo Salute termina qua, ma come sempre vi do appuntamento a domani, sempre a mezzogiorno, per una nuova puntata di Obiettivo Salute. Buona giornata da Nicoletta.